La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Fiabe, favole, racconti, leggende. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net. Claretta. Una fiaba liberamente ispirata dalla tradizione popolare. Scritta e messa in voce da Gaetano Marino. In un paese accanto al mare c'era un padre pescatore che aveva due figlie. Purtroppo l'uomo era rimasto vedovo, ma nonostante il dolore per la perdita dell'amata moglie, le figlie gli davano aiuto e conforto per andare avanti. Un giorno Pietrina, la maggiore delle due figlie, si sposò e rimase in casa la minore, Claretta, una ragazza laboriosa e onesta. Verso la fine di autunno ci fu una notte in cui una forte mareggiata s'abbatté sulle coste. Gli abitanti del paese, abituati a quell'evento, ne erano felici perché, finita la mareggiata, le acque si sarebbero ritirate come al solito, lasciando sulla spiaggia ogni genere di masserizie, cosicché si andava a cercare e raccogliere quel che di utile il mare avesse abbandonato. Quella mattina accadde qualcosa di straordinario. Si sparse la voce in paese di un vascello che era rimasto insabbiato sulla riva. Non era mai successo. Claretta e tutti gli abitanti del paese si precipitarono con grande eccitazione sulla spiaggia per ammirare quel vascello naufrago. Mentre la ragazza guardava con grande stupore la maestosità di quel vascello adagiato su di un fianco, notò tra i marinai dell'equipaggio indaffarati a sistemare i danni provocati dal forte vento un giovane ufficiale vestito di bianco che saltava di qua e di là arrampicandosi in ogni dove con una tale leggerezza che quasi pareva fluttuasse nell'aria come un airone bianco. Mentre raccoglieva una cima, il giovane ufficiale ad un tratto si voltò rapido come una volpe verso Claretta, come se i suoi occhi sapessero di già dove guardare. Claretta, sorpresa da quello sguardo improvviso e sopraffatta dall'emozione, abbassò lo sguardo. Subito dopo il giovane ufficiale si avvicinò al capitano, che stava sdraiato su una lettiga a causa delle ferite riportate durante il naufragio, e si rivolse al suo superiore, indicando Claretta. Il capitano si voltò piano a guardare la fanciulla e con un piccolo sorriso diede il permesso al giovane ufficiale di allontanarsi. Andava dritto verso Claretta, ed ella, mentre il giovane si avvicinava, vide la sua pelle olivastra, i capelli biondi, ricci e folti, e quando si fermò di fronte a lei, non poté evitare quegli occhi nerissimi e ridenti, che mostravano un sorriso dolce e indifeso. E il giovane ufficiale le parlò con garbata gentilezza. Buongiorno, signorina. La prego di perdonare la mia imprudenza, ma vorrei presentarmi. Mi chiamo Gianfelice e sono l'allievo ufficiale del... Il giovane ufficiale non ebbe nemmeno il tempo di concludere che Claretta fuggì via. Si può immaginare la sorpresa del giovane ufficiale, che restò immobile come un alloco, al che il capitano e tutta la ciurma sorrisero, ma non per deridere il giovane ufficiale. «Mio caro giovane, a quanto pare avete preso il cuore della fanciulla!» disse il nostromo, unendosi ai sorrisi degli altri. Claretta corse a casa e si chiuse nella sua stanza. Il padre stava in mare a pescare ed ella, fortunatamente, non avrebbe dovuto dare spiegazioni di quell'improvviso stato d'animo. Il cuore le batteva così tanto da volersene scappare e tornare su quella spiaggia. Ma il pudore teneva la ragazza costretta in casa. Mai aveva provato una sensazione così prepotente e impossibile da dominare. Sentì il suo respiro precipitare fuori, rapido, lasciandole una vertigine in tutto il corpo, mentre la mente si aggrovigliava tra tante domande. Un sentimento nuovo le gridava dentro, spingendola verso un'inspiegabile forza che la costringeva a rivedere quel giovane ufficiale. Il suo sorriso. Gianfelice, si chiama Gianfelice. E poi? Pensava in un brusio e con il desiderio di rivedere quel sorriso, prendere la sua mano per una carezza, stringerla a sé e sentirne il profumo, finché Claretta pianse e pianse. Ma non era un pianto di dolore, tutt'altro. Che cos'è tutto questo? Perché mi accade? Perché? Si domandò Claretta, quasi strozzando le parole in gola. E che vuoi che sia? Si chiama amore, ragazza mia. Una vocina improvvisa giunse da dietro la porta della stanza. Claretta fermò il respiro, dilatò gli occhi e rimase immobile, in ascolto. «Chi ha parlato?» si domandò la fanciulla. «Egli ha trafitto il tuo cuore», continuò quella vocina. Claretta si precipitò alla porta e l'aprì veloce, ma non vide nessuno davanti a sé. «Sono qui!» Ma la ragazza continuava a non vedere nessuno davanti a sé. «Ehi, qua giù!» Claretta abbassò lo sguardo e vide, lì, in basso, un animaletto, topo non topo. «Ciao, Claretta, sono io, Soriche Padente, il ghiro parlante. Mi duole per te, ragazza mia, ma ora non puoi più tornare indietro. Quel giovane ufficiale è entrato nel tuo cuore, come tu sei entrata nel suo. È inutile cercare il perché. L'amore è fatto così e la passione vi travolgerà. Ma io non voglio. Per questo sono andata via. Sei andata via tu, ma ti sei portata dietro il suo ricordo. Rassegnati, Claretta. Tornerai su quella spiaggia dove vi incontrerete e vi amerete in tutto e per tutto, perché tu ora hai bisogno di lui e lui ha bisogno di te. Io non posso, replicò Claretta. Il mio amato padre non lo approverà. Io devo stare con lui e devo accudirlo perché anziano. È il mio dovere non esistono doveri nelle questioni di cuore. Funziona così da sempre. Ma lui è un marinaio. Prima o poi riprenderà il mare. No, io non andrò. Claretta dovette interrompersi perché non vide più il ghiro parlante. Richiuse la porta della stanza a doppia mandata e si sedette sul letto per rimettere ordine nei pensieri. Impossibile riuscirci. Fu un attimo e Claretta, come sospinta da una forza inconfessabile, tornò sulla spiaggia. Gianfelice stava lì ad attenderla con la speranza nel cuore che ella tornasse. Si amarono tanto i due giovani per giorni e giorni. Si incontravano nella notte mentre il padre di Claretta stava fuori a pesca, e quando poi giungeva l'alba la ragazza tornava a casa prima che il padre rientrasse dal mare. Poi arrivò quel triste giorno in cui Claretta si recò al solito appuntamento con il suo Gianfelice, ma non lo trovò. Vide solo, nell'imbrunire della sera, le luci del vascello ondeggiare al largo in mare, aperto, e allontanarsi, sospinto dal vento nuovo. E Claretta pianse. Gianfelice, che era dovuto ripartire suo malgrado, stava affacciato sul ponte del vascello con gli occhi pieni di lacrime, mentre guardava le luci della spiaggia lontana, lontana, dove i due innamorati si erano amati, finché ogni cosa di laggiù diventò sempre più piccola e le luci sfumarono nel buio del mare. Trascorsi 2 mesi, Claretta si accorse di aspettare un figlio, per cui dovette dirlo al padre. Quando l'uomo lo seppe, si infuriò per il disonore. Subito chiamò la figlia maggiore, Pietrina, perché fosse testimone. E quando Pietrina arrivò, il padre diede a Claretta ciò che le spettava e con lo sguardo torvo le disse che in quella casa non c'era più posto per lei. La ragazza raccolse le sue poche cose e senza pronunciare una parola se ne andò. Giunta in città, trovò lavoro in casa di un barone, vedovo e senza figli, che la accolse volentieri affidandole il compito di governare la casa. Claretta fu rispettata come una figlia amata. Dopo alcuni mesi nacque il bambino, che Claretta chiamò con lo stesso nome del padre, Gianfelice. Il bimbo crebbe sano e sereno sotto le attenzioni amorose della madre. Il barone volle un gran bene al piccolo, che da subito lo chiamò nonno, ed egli ne era orgoglioso. E più Gianfelice si faceva grande, più assomigliava al padre, tranne i capelli, che erano, sì, riccioluti, ma neri neri, come quelli della madre. Quando il bambino compì 10 anni, Claretta chiese al barone di poter lasciare in casa il figlio sotto la sua custodia, perché era sua intenzione andare alla ricerca del padre del bambino. Il barone accolse la proposta di Claretta, assicurandole che Gianfelice sarebbe stato in buone mani. le diede inoltre del denaro e un cavallo per il viaggio. Claretta ringraziò il barone e il giorno dopo si preparò per il viaggio. Prima di partire si tagliò i capelli e indossò abiti da uomo. Poi salutò il figlio e il barone e partì. Verso l'ora del pranzo, la donna giunse in una nuova città e si fermò in una locanda per desinare. Mentre l'oste apparecchiava, Claretta gli domandò se egli sapesse di qualche nobile signore a cui abbisognasse un guardiano o un cameriere. Appena l'oste cominciò a parlare, subito egli si fermò e le parole gli si incagliarono in bocca. Tutto nell'osteria rimase sospeso. Persino il fuoco del grande camino fermò la fiamma a mezz'aria. I clienti restarono con i bicchieri in mano nell'atto del bere. Le posate si fermarono mentre tagliavano bistecche o sorseggiavano minestre e gli sguardi stettero immobili come statue di cera. Claretta si guardò intorno, poi vide spuntare la testolina di un topo non topo dalla saccoccia unta e bisunta del grembiule dell'oste. «Soriche padente, che bello rivederti!» disse sorridendo Claretta. «Bello, sì, per te!» rispose il ghiro parlante con una smorfia. «Per me invece puoi immaginare il puzzo che ci sta nella saccoccia di quel grembiule sudicio. Quest'oste di sicuro non si lava da mesi. Vabbè, sono gli inconvenienti del mestiere. Pazienza! Dunque, Claretta cara, ascolta. Dopo che avrai finito di mangiare, proseguirai il tuo viaggio. Finché, fuori città, vedrai un grande palazzo sontuoso dove vive il governatore della contea. Suonerai la campana al cancello e quando ti apriranno chiederai di offrirti un lavoro. Il resto verrà da sé. Troverò il mio amato Gianfelice? Forse che sì, forse che no. E chi lo sa? Ma tu puoi dirmelo. Tu conosci il mio destino. Mi dispiace, ma a questo non posso risponderti. E non guardarmi con quegli occhi. Se io ti dicessi come andrà a finire, pensi che chi sta ad ascoltare avrebbe più voglia di arrivare alla fine di questa fiaba? Non credo. Bene. Ora devo tornare dentro la saccoccia di quel fetido grembiule. Ciao, ciao! Il ghiro parlante scomparve e l'oste si rianimò. «Scusate, signore, mi avete chiesto qualcosa?» domandò l'oste. «Io? No, vorrei mangiare piuttosto». «Bene, cosa desiderate?» fate voi, purché io possa fare in fretta. Devo ripartire prima che cali il sole. Ah, bene, bene. Sapete già dove alloggerete? Noi abbiamo delle ottime stanze. Vi ringrazio. Ho un amico che mi attende fuori città. Fuori città? Non vi sono locande fuori città. Ah no. Devo comunque raggiungerlo. Magari torneremo qui. Noi siamo sempre aperti, caro giovane signore. «Bene, vi porto da mangiare subito!» «Vi ringrazio!» Quando Claretta finì di mangiare, pagò il conto, uscì dall'osteria e a cavallo si diresse verso fuori città. Quando vi giunse, vide il gran palazzo del governatore. scese da cavallo e batté due colpi alla campana del cancello. Venne ad aprire il custode, che subito condusse Claretta in una grande sala del palazzo, dove fu ricevuta dal maggiordomo. «Buonasera, giovane signore. Cosa posso fare per voi?» domandò il maggiordomo. «Buonasera a voi, signore. Vi chiedo scusa per l'ora tarda, ma avrei bisogno di parlare con il signor governatore.» «Mi dispiace, giovane signore, ma il governatore adesso è molto impegnato. Dite a me, prego.» «Ecco, sì, sono alla ricerca di un lavoro.» «Ditemi che cosa sapete fare.» «Di tutto, qualsiasi cosa.» «Bene. Sapete tirare con la spada?» «Con la spada? Avremmo bisogno di un ottimo spadaccino.» Claretta non se l'aspettava, ma dopo un momento di incertezza rispose: «Ma certo, certo che sì», disse sapendo di mentire. «E in verità è da tempo che non tiro più con la spada, ma mi basterebbe un po' di esercizio.» «Non c'è fretta. Bene, giovane signore, siete assunto. Ditemi, sapete dove alloggiare?» «No, sono appena arrivato in città.» «Non vi preoccupate. Vi farò preparare una stanza dove alloggerete, finché deciderete di stare al servizio del governatore.» «Vi ringrazio, signore», rispose Claretta. Non ve ne pentirete. A proposito, posso conoscere il nome del signor governatore?» «Governatore Gian Giacomo da Mapefosca, ma potrete chiamarlo signor governatore. Sarà sufficiente.» Gli occhi di Claretta scivolarono per un istante d'intorno alla grande sala, dove le parve di vedere alcuni grandi dipinti che raffiguravano vascelli, e per un attimo ebbe un piccolissimo sospiro. «Il signor governatore è stato un valoroso capitano di vascello», disse il maggiordomo. «Capitano di vascello?» domandò Claretta. «Sì, una storia di grande e nobile avventura, ma anche terribile e tragica, di cui sarà meglio non ricordare in presenza del signor governatore.» «Certamente», rispose Claretta, chinando il capo. «E il vostro nome?» «Oh, sì, perdonatemi, Di Felice, Gianbruno Di Felice.» «Gianbruno Di Felice? Bene, io mi chiamo Giambattista. Dunque, voi vi chiamerete semplicemente Spadaccino e io semplicemente Maggiordomo. Ora vi farò accompagnare nel vostro alloggio e domani avrete l'onore di conoscere il signor governatore.» Claretta fu condotta in una stanza dove stava un comodo letto e appena vi si sdraiò sopra, vinta dalla stanchezza, si addormentò. Fu quella davvero una notte di sogni tempestosi. Claretta stava in plancia a comandare un vascello finito nel bel mezzo di una tempesta, tra onde altissime, fulmini e raffiche di vento che piegavano la nave da una parte all'altra. L'equipaggio disperava e scongiurava, ma non si sentiva nessun rumore di fulmini, tuoni, vento e niente grida né lamenti. L'albero maestro si spezzò all'improvviso e rovinò sul vascello, troncandolo in due parti. In una parte a prua stava lei, Claretta, nell'altra a poppa il suo amato Gianfelice. Infine un'onda gigantesca s'alzò e travolse il vascello, ma solo la prua dello scafo su cui stava Claretta gonfiò le vele, che divennero ali gigantesche e si sollevò oltre la tempesta. L'altra parte dello scafo, su cui stava Gianfelice, invece, si inabissò in un istante e subito la tempesta si placò. La mattina dopo, Claretta fu svegliata dall'inserviente che la invitò nella grande sala ad attendere il maggiordomo. Quando la donna entrò nella grande sala, subito i suoi occhi, ancora un po' assonnati, cercarono i quadri di Velieri. «Ben risvegliato, signor Spadaccino, avete dormito bene?» domandò entrando il maggiordomo. «Oh, notte un po' burrascosa, grazie. Forse la stanchezza del viaggio», rispose Claretta. «Probabilmente. Attendete qui. Il signor governatore scenderà tra poco». Rimasta sola, Claretta si avvicinò a quei dipinti. C'erano vascelli gonfi di vele che solcavano il mare. Altri invece naufragavano in mezzo alle tempeste. Tra i tanti, un vascello in particolare attrasse l'attenzione di Claretta. Era identico a quello trovato sulla spiaggia dopo la mareggiata di quel tempo. Il vascello era ritratto nel mezzo di una tempesta in balia del mare in burrasca, con onde altissime. Il vento forte aveva spezzato l'albero maestro e strappato le vele. Claretta si avvicinò ancora e notò che sul bordo della prua si poteva leggere il nome del vascello. «Vi piace?» Era quella la voce del signor governatore. Claretta si voltò rapidamente e vide un uomo in piedi appoggiato ad un bastone che immaginò essere il governatore. «Buongiorno, signor governatore. Mi sono permesso di dare uno sguardo a questi dipinti meravigliosi. Questo vascello in balia della tempesta è davvero pauroso e terribile. Voi siete il nuovo spadaccino, è così?» domandò il governatore, interrompendo Claretta, come se volesse parlare d'altro. «Sì, signor governatore, avrei solo bisogno di rimettermi a tirare per un po', per riprendere la mano. È tanto tempo che so già tutto, signor spadaccino. Affrettatevi dunque, perché la prossima settimana partiremo per un viaggio assai importante e saremo insieme alla delegazione del Consiglio. Dovrò consegnare una grossa somma di denaro al re e avrò bisogno della vostra protezione. Contate pure su di me, signor governatore. Bene, ora vi lascio. Ho da sbrigare alcuni impegni. Il mio maggiordomo si prenderà cura di voi. A presto». «Ai vostri ordini, signor governatore». Dopo che il governatore si allontanò dalla sala dei dipinti, Claretta tornò con lo sguardo su quel vascello in tempesta che aveva attratto la sua attenzione e le parve di vedere, tra i tanti disperati marinai dell'equipaggio, il ritratto del suo amato Gianfelice, o quello che ricordasse di lui, o forse era solo una suggestione. Claretta si avvicinò ancora di più al dipinto e, sì, era proprio lui. I suoi occhi, i suoi capelli biondi e ricci, il colore della sua pelle. «Non può essere. È proprio lui. Gianfelice», disse sottovoce Claretta. Poi scivolò rapida con lo sguardo per scrutare il nome del vascello e lesse: «Claretta». un sospiro di meraviglia e un brivido di presagio scossero Claretta. Passò una settimana e una mattina il governatore, insieme allo spadaccino e agli altri membri del consiglio, salirono in carrozza e partirono per la missione. Purtroppo qualcuno, come spesso accade in queste occasioni, doveva aver svelato il motivo di quel viaggio e soprattutto del prezioso trasporto, cosicché una masnada di briganti assalì la carrozza. Alcune guardie della scorta furono uccise e quando i briganti aprirono la porta della carrozza, videro il governatore disarmato che teneva stretta a sé la borsa dei denari, mentre i membri del consiglio erano immobilizzati dalla paura. Il capo dei briganti tirò con la spada per trafiggere il governatore al cuore, ma d'improvviso spuntò fuori lo spadaccino, che parò il tiro con la propria spada e affrontò i briganti mettendoli in fuga. Purtroppo, nel battersi, Claretta fu trafitta gravemente alla spalla. Il sangue usciva copioso. Bisognava riportare subito lo spadaccino a palazzo per le cure e il governatore ordinò immediatamente di rientrare a palazzo. «State tranquillo, signor spadaccino, non vi affaticate. Rientriamo subito e vi cureremo». Giunti a palazzo, chiamarono il medico. Intanto il governatore strappò la camicia allo spadaccino per vedere la gravità della ferita. E con grande stupore vide che quello era inequivocabilmente il petto di una donna. Trascorsero i giorni. Claretta era stata adagiata su un letto posto al centro della grande sala. Ella era ormai fuori pericolo, seppure una terribile febbre ancora la tormentava nei dolori. Una mattina riaprì gli occhi e vide accanto a sé, seduto mentre s'appoggiava ad un bastone, il governatore. «Mi avete salvato la vita e vi sono grato», disse il governatore. «Era il mio dovere, signor governatore», rispose Claretta con un po' di fatica. «Siete un bravo spadaccino. O forse, devo dire, una brava spadaccina?» Il governatore sorrise e anche Claretta accennò un lieve sorriso. «Riposatevi ora», disse gentilmente il governatore. «Parleremo dopo». Poi si alzò lentamente, con l'aiuto del bastone, e si allontanò. Concluso il tempo della convalescenza, il maggiordomo andò a trovare Claretta e domandò: «Come state?» «Bene, vi ringrazio», rispose Claretta. «Posso farvi una domanda?» Claretta chinò il capo e disse: «Ditemi. Voi avete conosciuto un giovane di nome Gianfelice? È così?» «Come lo sapete?» «In queste notti avete delirato sotto gli attacchi della febbre. Chiamavate un giovane di nome Gianfelice, supplicandolo di non partire. Egli era per caso un marinaio ufficiale?» Claretta non rispose, ma volse lo sguardo in cerca del dipinto di quel vascello avvolto dalla tempesta, dove aveva visto ritratto il volto del suo amato Gianfelice. Non ci fu bisogno di risposta. Era quello il vascello del figlio del governatore, aggiunse il maggiordomo. L'aveva chiamato Claretta, e suppongo che Claretta sia pure il vostro nome. Sì, è così. Egli parlava tanto di voi. E dov'è ora? Sono alla sua ricerca da tanto tempo. Ho da dargli una notizia importante. Mio figlio non è più in questo mondo, disse una voce improvvisa. Claretta la riconobbe subito. Era quella del governatore. Il maggiordomo si allontanò e Claretta raccontò al governatore di quelle notti in cui lei e Gianfelice si erano amati. Il governatore disse che sapeva del loro incontro. Gianfelice gliene aveva parlato con tanta passione ed entusiasmo, ed era sua volontà tornare su quella spiaggia per rivederla. Ma una tempesta improvvisa lo aveva portato via. Dopo quella triste notizia, scese il silenzio nella grande sala, trascorso il quale Claretta, con la tristezza negli occhi, chiese di poter tornare a casa. Vi capisco, rispose il governatore. Se questo è il vostro intendimento, darò disposizioni perché vi si prepari quanto occorra per il viaggio. Claretta si alzò e si avvicinò al governatore per abbracciarlo in silenzio. In fondo, entrambi non avevano bisogno di altre parole. Claretta tornò a casa del barone, al quale raccontò dell'incontro avuto con il governatore. Il barone le domandò perché non avesse parlato al governatore del figlio avuto di Gianfelice, suo nipote. Claretta rispose che il piccolo Gianfelice stava bene in quella casa. Lei era riconoscente verso il barone, che aveva accolto madre e figlio, e Gianfelice gli si era affezionato tanto. Crede che io sia suo nonno, disse il barone con gli occhi lucidi. E voi lo siete, signor barone, aggiunse Claretta. Ma perché? Non si possono avere, forse, due nonni, proseguì il barone. Di solito è così. Ascoltatemi, Claretta. Vi parlo con il cuore aperto. Dovreste portare al governatore suo nipote, Gianfelice. Egli è anziano come me. Potrete stare un po' qua e un po' dal governatore. Voi sapete bene quanto io sia felice nell'aver adottato voi e vostro figlio. Pensate allora alla gioia immensa del governatore se venisse a conoscenza del figlio di suo figlio e che porta il suo stesso nome. Dunque, spetta a voi decidere. Claretta diede ragione al barone e così andò. E si può solo immaginare l'emozione del governatore quando scoprì e vide per la prima volta suo nipote Gianfelice, quando vide in quel bambino l'immagine riflessa di suo figlio, tranne i capelli che, come abbiamo già detto, erano neri neri come quelli della madre Claretta. E ovviamente vissero tutti per sempre felici e contenti. Thank you.